24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Io comprerò il popcorn per assistere all'epico scontro D'Alema Fioroni sul ruolo dei cattolici dentro la sinistra europea. Comprerai popcorn, così Matteo Renzi, mamma mia, è sempre Pierino Giamburrasca. Ieri il PD doveva discutere se entrare nel PSE e Fioroni ha detto no, io sono cattolico, non, questa cosa non mi piace. E Renzi, come ha detto, comprerò i popcorn per assistere al dibattito Fioroni-Rene D'Alema sul ruolo dei cattolici. Va bene, cari italiani, è venerdì. E questa è già un'ottima notizia, le 6:33 minuti, io faccio appello al Presidente del Consiglio, che certamente sarà già davanti a Twitter, a Palazzo Chigi, a twittare, a lavorare. Chiedo urgentemente un decreto salva Milan, per me, cioè non la squadra, vabbè. Oggi non ce la faccio. Sono le 6:34 minuti. Questa è 24 mattino. C'è Miriam Lucchetti in redazione che ce la farà per me. C'è l'alpino Peter Bescapè in regia che ce la farà per me. E possiamo aprire il Parlamento? Forza, forza, dai! Il caffè volentieri a tutti quanti. È lo schema Allegri come al solito. Intanto voglio salutare subito Vincino, lui ce la fa sempre. Eccoci, sentite che voce squillante. Un uomo che terrei sul comodino per svegliarmi con l'umore giusto. Vincino, una grande giornata oggi. Una grande giornata. Quella di ieri è bastato un popcorn, è un problema che da anni attanagliava il Partito Democratico. Rutelli se ne uscì per questa cosa qua. Intanto soffrivano, Veltroni non ci riusciva. E via, in mezzo secondo, tac, Partito Europeo e rompete le scatole. E Renzi che dice: e assisterò coi popcorn. Sì. È così. Una settimana di Renzi è un anno di tutti noi. Esatto, Turbo Renzi. È un secolo, Turbo è una Renzi. Cosa, una curiosità ormai talmente, e poi hai capito la cosa, lui chi teme? Solo un altro sindaco. Ah, ecco. Bastona Marino, perché lui fermati, solo un sindaco lo può fermati, fregare, sei più veloce di Renzi, non capisco sì, nulla. Più o meno. Allora, caro Vincino, ti voglio presentare una persona che per la prima volta si affaccia al Parlamento e insomma lui, quando noi metteremo giù il telefono, tu Vincino vai a dormire, io leggo i giornali e lui invece tra po' sarà a fianco di Federica Paricucci. Capisci che insomma voglio salutare Federico Novella, conduttore di Mattino 5. Buongiorno a tutti. Sto guidando perché sono andato verso Cologno, tra poco vado in onda. Tra l'altro ho dormito poco stanotte. Perché stavo pensando, ma cosa penserà Fioroni dell'ingresso del partito nel PSE? Quindi è stata una notte tormentata. È un dramma. Fioroni non so se ha preso sonno, perché insomma il ruolo dei cattolici nel... Guarda, non si parla d'altro. Il ruolo dei cattolici è quello. La sofferenza fa parte. Sono proprio istruiti, abituati, fin da quando nascono hanno il peccato originale, sono tutte queste cose terribili. Adesso non esageriamo. Allora, Federico Novella conduce Mattino 5, oggi chi avrete? Ma oggi andiamo su Grillo che perde pezzi, prendiamo un grillino, prendiamo un esponente del PD, poi c'è Marina Ripa di Meana, e siccome si danno dei fascisti, ho pensato di chiedere un parere a Donna Almirante, che di fascismo ne sa qualcosa, Donna assunta. Sarà da ridere. Allora, visto che hai introdotto la questione dei grillini, caro Vincino, tu che sei renziano notoriamente, ma sei ancora pentito renziano? No, il governo fa schifo, però lui, come dire, lui è all'altezza, è bravo. Speriamo che riesca a supplire a questa carenza del governo. Fa tutto lui, ma sì, ma chi? Deve far tutto lui, non può lasciare un attimo solo. Non deve fargli fare niente. Ma tu, ma scusa, ma questa cosa che è passata un po' sotto traccia, ma anche a Vincino forse è sfuggita, ma hai letto il Corriere cosa scrive, come chiama, come Del Rio lo chiama? Come chiama Renzi? No, ma questo col telefonino. Del Rio chiama Renzi Mosè. Mosè. Scherzosamente. E Renzi chiama Del Rio Ietro, che era il suocero consigliere di Mosè. Questo l'ho dovuta studiare. Ma non c'è il film che sta uscendo su Mosè, che c'è Crown, l'attore che dice: non lo so. Papa Francesco, guarda il film che è bellissimo. No, vero, se tu guardi su non so, qualche online. C'è. Non lo so, vabbè, ma questo vabbè, magari ti ispirerà qualche vignetta. Mosè, fai qualcosa, Mosè. No, io vorrei capire, allora, il Movimento 5 Stelle, intanto tu Federico, chi avrai oggi? Chi è che viene lì a parlare del Movimento 5 Stelle? Uno Ma c'è il vecchio Daniele Martinelli, che è un grillino che però poi ha lasciato il Movimento, ormai trovare grillini ortodossi è difficilissimo. E poi ci collegheremo con la Camera per cercare di beccare qualche dissidente, che si muovono attaccati alle pareti, li trovi nei corridoi. Perché poi non sai più neanche come arrivarci, perché l'ufficio stampa è andato con Grillo, i dissidenti hanno spento il telefono, si nascondono dietro gli angoli. Bisogna andare a scovare proprio con l'alternino, capito? Ma nei sottoboschi, erano con l'impermeabile, incappucciati, capito? E quindi è molto difficile, è difficile. Vincino, dura la vita del dissidente all'interno del Movimento 5 Stelle. Credo che sia la professione più difficile al mondo, il dissidente all'interno del Movimento 5 Stelle. Poi proprio anche l'espressione, all'aria, all'espressione di chi non è d'accordo, no? Cioè, perché alcuni di questi non hanno fatto proprio niente di niente, no, manco proprio forse un pensiero di nascosto, ma non l'avevano detto a nessuno e sono stati beccati perché c'hanno, proprio leggono il pensiero. Casaleggio ha fatto una macchinetta pazzesca che i legge del pensiero addirittura, anche se secondo Fico, che è uno dei deputati del Movimento 5 Stelle, quelli ortodossi, hanno commesso una colpa terribile, che è questa, sentite. E quando ci siamo candidati dai palchi, queste persone gridavano tutti a casa il PD uguale al PDL, allora perché dobbiamo fare le cene segrete con Civati, le cene segrete con gli esponenti del PD? Ecco, le cene segrete, capisci Federico? Le cene segrete fanno! Sì, poi io me la immagino, la cena segreta con Civati. Poi pensa che gioia, no? La cena segreta con Civati, molto meglio le cene eleganti. Civati proprio quello, il meno affidabile di tutti, oggi Vincino ce l'ha con Civati. Civati lo butterei fuori, se fosse Grillo. Ma no, Federico Novella, fanno le cene segrete, questo è un po' un'accusa terribile. Ma io ho sentite tante di accuse, cioè quello che hanno visto che stava disegnando il simbolo del suo nuovo partito, non si capisce chi l'ha visto, l'hanno letto in rete. Mi sembra di capire che insomma ogni accusa è buona, insomma, per infangare il dissidente, che poi alla fine secondo me qualche colpa ce ne ha, perché si accorge solo adesso, insomma, che Grillo è poco democratico, insomma. Sì. Lo dice lui stesso che è poco democratico, quindi questa cosa che improvvisamente si accorge che è un dittatore è un po' strana. Attenzione, cari grillini. Federico, hai un account Twitter tu? No, ce l'ho, ma probabilmente me lo bloccheranno fra un'altra No, infatti, perché così lo segnaliamo, che sai che i grillini sono molto attivi, contro Vincino. Appena faccio una cosa subito, va, ecco. Infatti voglio subito dirlo, io sono andato a cena con Civati. Io non sono mai andato, io per esempio non sono mai andato a cena con Civati, Vincino sicuramente sarà andato a cena. No, nemmeno io, mai a cena con Civati. No, aspetta, nello stesso coso sì, alla buvette sì, più volte mi sono incontrato là, però facciamo caffè ognuno, ma... E pagava chi? La, La camera. Ma no, non costa niente il caffè, dai, 5 centesimi il caffè, dai. Insomma. Ti sei fatto pagare un caffè dalla camera e dai contribuenti? Quelli sono gratis i caffè. Ti sei fatto pagare dai contribuenti un caffè? È la carta dei vignettisti. È la sì. Io rubo la carta là, le cose, tutto là, alla camera. Faccio le telefonate gratis, le telefono nella camera. Cari amici, Vincino è pagato da noi praticamente. È pagato da noi, è uno della casta, va alla camera, sei capito, per usufruire, guarda. Per sfruttare, usufruire. Un volontario della casta. Vabbè, ma comunque il vero problema, allora ieri pare che Renzi, pare, il Corriere dice, Renzi ha alzato il telefono, ha telefonato a Marino e pare che siano volati parole grosse con la C aspirata. Questo scrive il Corriere. Allora, che parola grossa con la C aspirata alla Fiorentina avrà mai potuto dire Vincino, secondo te? Io pensavo più, non lo so, secondo te Federico qual è la parola? Secondo me con la C, Cooperlo. Bravissimo questo. Questa è bella. Cooperlo gli avrà detto. No, mi sa che gli avrà detto di più e di peggio. È bello però Marino che minaccia a Roma che si fermerà, Roma che tu dai. Papa Francesco è felice perché Roma sa via la santità. Così, questa Roma è diventata povera, no? La gente si va a lavare nel Tevere, tutti camminano a piedi scalzi, no? È la felicità proprio più piena di ma che felicità Papa piena. Francesco, ma tra l'altro oggi ci sono degli articoli che leggerò in rassegna stampa, dei conti terribili, ma dice Marino, Roma per carità ha ereditato la situazione. Sì, sapete quanto guadagna in media un dirigente delle società pubbliche, società partecipate? 125.000 euro con punte di 500.000 euro, 600.000 euro. All'ATAC hanno perso 1.600 milioni negli ultimi 10 anni. 20 dirigenti e già è fallita, non è che 1.600 milioni, Federico, e chiedono soldi, no? Dice no, non chiediamo soldi, ma insomma Roma. Vuoi farmi fare il populista? Esatto. Dai, su, dai, buttati, dai, che no, sei iscritto alla Lega, lo sappiamo, sei il leghista della Lega. Borghezziano. No, ma Marino fa bene a mettere fretta a Renzi, perché Roma è una città particolare, ci sono le ambasciate, i comizi. Però faccia in fretta anche lui, insomma, a riempire le buche, a rimettere a posto i San Pietrini. E poi a ripianare il bilancio, che l'hai detto tu, è colossale, soprattutto a tagliare un po' di poltrone, perché insomma i dirigenti che ci sono intorno alle aziende controllate dal Comune di Roma sono una pletora infinita, quindi quando si tratta di andare a tagliare poi aspettiamo, come facciamo? No, ma è un gran classico. Allora, poi per dire, le buche non hanno mai fatto un controllo di quando rimettono a posto il... come si chiama? L'asfalto, il cemento armato. Mai, non c'è mai un controllo, mai una cosa, per cui Roma è la città più terrificatamente, io cammino in moto, insomma, cado un giorno sì, due giorni no, praticamente. No, come? L'ultima volta che sei Vincino? No, esperienza terribile che mi manca ormai, guarda. Perché ricordiamo, però la più terribile, ma non la diciamo a nessuno. La diciamo magari dopo il traffico, ma la teniamo qua tra noi, non ditela a nessuno in giro che Vincino è stato in carcere, per carità. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico. Siamo con Vincino, Federico Novella, poi dovremo sentire sicuramente un comandante e altre cose. 24 mattino. Grillo, sei un dittatore. I tuoi hanno espulso 4 senatori per il solo motivo di aver aperto la bocca. Vergognati. A Napoli, quando una persona non cammina dritto, si dice camminerenti, speriamo bene. Ma hai notato che Repubblica è diventata la Barbara d'Urso dei quotidiani? Ieri ci ha raccontato anche quanti bicchieri d'acqua, quante spremute e quanti caffè ha bevuto Renzi. Accidenti, questo era il quotidiano fondato da Scalfari. Matteo, al solo e primo obiettivo che tu non realizzi, alla prima panzana che hai detto, in questa porcheria che hai fatto, ti tiri fuori le mani dalla tasca, ti noleggi la tua Giulietta e te ne torni a casa senza la scorta. Ciao Sandro, il grillino sta mettendo la purga, mi sembra che stanno scappando tutti. Matteo, buona giornata, so che stai per scrivere il Vangelo secondo Renzi. Ho avuto una carta dove su 461 euro di pensione si sono accorti che nel 2010 mi hanno dato 4 euro in più al mese. Ho avuto una carta dove io devo a loro 83 euro su 461 euro. Finché nel mondo c'è un prete e un deputato, il mondo sarà sempre depravato. Finché nel mondo c'è un deputato e un prete, sempre di dietro lo prenderete. Vabbè, questa rima baciata, non lo so, Federico Novella, la lasciamo così, è la nostra segreteria telefonica. È un paese reale, il calderone dei nostri umori, no? Vincino, come va? Tutto bene? Ti piacevano questi? Allora, dobbiamo parlare del comandante. No, prima vorrei raccontare la storia di un signore che si chiama Francesco Schettino, lo conosci, caro Vincino? Francesco Schettino. Il comandante è un altro. È un omonimo, giudice a Napoli, giudice a Napoli, è caduto dalla sedia in ufficio e si è fatto 180 milioni di rimborso. Aspetta, si è fatto risarcire con 140.000 euro per danno biologico. Noi abbiamo qui una sedia rotta a Radio 24. Ogni volta mi siedo e rischio di adesso, cioè, voglio dire, Federico, lì avete a Canale 5 a Mediaset, io credo che adesso saboterò la mia sedia, farò in modo di cadere in qualche modo, no? No, ma poi io l'ho letta sul giornale, su Libero, cade dalla sedia 140.000 euro e si chiama Francesco Schettino. Ho detto, qui mi stanno paraculando perché c'è qualcosa che non va. Schettino, giudice a Napoli e via. E cade, che, e abbandona la sedia. E prende, la sedia affonda. E invece pare sia tutto vero. Risalga sulla sedia. Eccola. Comunque, vogliamo sentire o comandante che ieri è salito sulla nave. Ha anche detto il comandante Schettino. Questa me la sono segnata perché questa. Vabbè, intanto sentiamo Schettino, poi la trovo. Se il signore là parla ancora di abbandono là, non ha capito un cazzo. E quindi che stiamo a palla a fare? Io stamani mattina. Sono io che non ho capito. Ma scusi, ma come fa a dire questo? No, lei la butta sul computer, i calcoli, le norme. Lei l'ha lasciata la nave, io l'ho seguita. E l'ha seguita proprio. Lei stava giù e il vice sindaco stava sopra. Vabbè, capito Federico, non ha capito un cazzo questo, se parla di abbandono nave. Tutti penseremmo la stessa cosa. Ma ancora in tempo a candidarsi Schettino, esatto. Assolutamente sì, certo. No, ma questa proprio è una bella logica tutta napoletana proprio. Comunque, eccola la frase che ha detto. La frase è questa: non è vero che quella notte ho sbagliato, anzi, alcune leggi sono state adeguate proprio in base alla mia manovra. Grazie, che dobbiamo dire? Grazie comandante, no? Vincino, vuoi dare il tuo grazie per questa manovra nella quale hanno perso la vita 32 persone? Che dobbiamo dire? Però la società c'ha la sua bella colpa oltre il comandante. La società? No, sono in due proprio, non è che ho in tre. Guarda, la società nel senso. Assolutamente sì, la Costa Crociere, la carne, la cosa, no, la società noi, no, quella su noi siamo totalmente innocenti rispetto a questo, cioè mai pensavamo che uno passasse sugli scogli così ogni settimana tutto con migliaia di persone, come uno pensare che passasse in mezzo a Venezia con navi enormi così, non esiste. Non vai a pensarlo mai, non può pensarci mai una cosa così. Che dici Federico, a mattino 5? Non lo chiamate, dai su il Schettino, non lo chiamiamo? Sì. Ma, il giudice, magari il giudice della sedia, almeno quello. Ah, il giudice

cioè la eterniamo in questa condizione schifosa? No, ecco, sì. Punto, no, questo beh, no, sì. Questa è la seconda se la salviamo, domanda. Se come l'abbiamo già salvata quando è arrivato Alemanno, la risposta è sì, perché Atacama, tutte queste cose che hai citato sono sotto gli occhi di tutti da decenni e non sono cambiate se non peggiorate. La politica a Roma, più che altrove, più che in altri grandi comuni, perché Roma per tanti anni, la politica e i partiti pervadono una per una quella società che tu hai citato, sono proprio dentro, i dirigenti sono roba loro, gli eccessivi assunti sono roba loro e così via. Siccome fino a questo momento già i 20 miliardi, 20 attribuiti alla gestione commissariale del 2008, non hanno indotto l'amministrazione che c'è stata a cambiare marcia su queste cose, il criterio secondo me è sbagliato, per il quale ne aggiungiamo non più 20, sì, ma altri 650 e così via, ma senza condizionalità, perché questo è quello che ha chiesto Marino col suo tono da masaniello intollerabile, cioè lui non vuole condizioni, dice me li dovete dare e basta, questo è sbagliato, perché le condizioni vanno date. Lui dice quei soldi sono soldi di Roma, che devono essere restituiti ai romani. Beh, sono sbagliato perché mente anche per la gola su questo, perché quei 485 milioni, dei quali vuole la restituzione, dati come base dell'attivo patrimoniale della gestione commissariale del 2009, furono messi dal tesoro, non da Roma. Mentitore masaniello, ridicolo, Marino. Vabbè, il clima, come vedete, caro Oscar, ti vedo molto e ti sento molto accalorato. Beh, ma certo, perché il concetto, no, certo, li paghiamo io e te quei miliardi, ma come certo, tutti i contribuenti, sai. Ma chiaramente, infatti, la domanda è: salviamo, io ho messo apposta le due cose insieme, cioè salviamola anche Roma, ma non perpetuiamo effettivamente questa situazione. Cioè, se è salvare per salvarla o se è salvare per cambiarla, ma su questo, e voglio salutare il senatore del Partito Democratico Giorgio Santini. Buongiorno, senatore Santini. Buongiorno. Su Oggi il Messaggero racconta questo: salviamo Roma, ma il decreto che arriverà oggi sarà un decreto che di fatto commissarierà la gestione del comune, nel senso ci vuole un piano di rientro rigoroso nel momento in cui salviamo Roma e soprattutto questo piano di rientro verrà controllato direttamente dal Ministero dell'Economia, che siederà nella gestione commissariale del Comune di Roma. Senatore Santini, salvare Roma Capitale, e se sì, come e perché? Beh, anch'io credo che vada fatto un intervento molto rigoroso, non è più tempo di pagare a piedi vista come purtroppo è stato fatto in passato. La dimensione del debito e soprattutto la dimensione delle disfunzionalità, chiamiamole così, che avete anche citato, esigono che ci sia una fortissima condizionalità nel permettere di salvare, con quel meccanismo di 485 milioni, di salvare il bilancio 2013. E la condizionalità in realtà era già prevista nel decreto che è decaduto, si potrà migliorarla, spero, con il decreto che verrà fatto oggi, e prevedeva esattamente quello che è stato ricordato, cioè che a fianco dell'intervento di tipo finanziario ci fosse un piano di rientro da realizzare e da concordare con il Ministero dell'Economia e con il Governo in generale, e se no? Articolato su una serie di misure molto precise, erano scritte nell'emendamento che porta tra l'altro il mio nome, appunto, tutte volte a intervenire sui singoli fattori che creano l'indebitamento, quindi infatti, dal patto di stabilità alle partecipate. Ma infatti noi l'abbiamo chiamata proprio per questo. Lei ha fatto questo emendamento nel decreto, quello che è decaduto e che verrà riproposto. È decaduto tra l'altro anche perché chiaramente Renzi avrebbe dovuto porre la fiducia, poi forse si sarebbe creata una nuova ghigliottina parlamentare per l'opposizione, quindi insomma, sarebbe successo l'ennesimo putiferio e non era un buon punto di partenza per il governo Renzi. Però lei in questo emendamento dice c'era un piano di rientro. C'era, caro Oscar Giannino, so che tu sei critico su questo punto. No, io sono critico perché, siccome conosco adesso Santini, il problema è il PD romano. Il PD romano, di fronte alle richieste di una condizionalità che ci sono state nell'iter parlamentare del decreto più rilevante, più incisiva, ha partorito poi alla fine un emendamento che dice non si toccano le piante organiche e non si toccano le partecipate controllate che offrono direttamente servizi. Quindi l'AMA, l'ATAC, le maggiori piaghe cittadine, ce ne sono tante altre, quindi io comunque apprezzo che ci sarà un intervento, almeno sarà possibile, poi vedremo se ci sarà un intervento su società come Risorse per Roma, 50 milioni l'anno e non dà direttamente un servizio. Però il problema è l'intero perimetro delle partecipate. Quando ieri il sindaco ha detto vogliono costringermi a licenziare metà dei dipendenti dell'ATAC e dell'AMA, a parte il tono intollerabile, ripeto, di un sindaco di Roma che minaccia di far saltare la canonizzazione di due papi, cioè una roba che andrebbe sanzionata per il solo fatto di usarlo quel tono, però sta difendendo le piante organiche di ATAC e AMA che sono intollerabilmente gonfie. Mm. Cioè l'azienda di trasporto pubblico è la più grande d'Europa, sì, per numero di dipendenti, e una volta che ha raccolto tutti quei pochi poche risorse da bigliettazione, resta il 55% dei costi. È che il problema, Oscar, lui si trova, lui dice, io sono il sindaco che sono stato eletto, eredito sta situazione, vengo a fare il liquidatore. Viene a fare il liquidatore, lui è stato eletto con 64% dei voti per occuparsi di riportare l'equilibrio ordinario del bilancio. Il problema è che anche dopo questa mega iniezione di soldi, l'equilibrio ordinario del bilancio non c'è ed è certificato dalla ragioneria centrale dello stesso comune. Questo è il punto centrale. Infatti, quando lei, Santini, dice anche nel mio emendamento c'erano dei piani rigorosi, rientro, eccetera, altrimenti che succede? Perché sa, mettere sulla carta bisogna far rientrare, fare un rientro rigoroso di bilancio, piano di bilancio con un rientro, eccetera. Se poi uno lo rispetta, cosa succede? Che tra 3 anni ci ritroviamo a dire: ah, c'è il buco di bilancio, bisogna intervenire con un decreto d'urgenza, senatore? Beh, allora intanto va detto che l'emendamento era, a mio avviso, rigoroso, si può fare meglio, concordo con Giannino, si può fare meglio su alcuni punti, però nel rigore dell'emendamento c'era anche, ad esempio, un elemento che finora è stato completamente aggirato, che è la causa, anche l'origine del buco di deficit. Cioè il fatto che il deficit delle società partecipate, per esempio l'ATAC, l'AMA, veniva sostanzialmente trasferito al comune. Questo, ed è il primo punto del piano di rientro, non è più possibile farlo, perché non è più possibile in base anche alla legge di stabilità in tutto il paese, a maggior ragione non sarà più possibile farlo nella capitale, e quindi questo obbliga automaticamente le società partecipate gestite, quindi appunto l'ATAC, l'AMA e tutte le altre, ad una fortissima razionalizzazione, riorganizzazione, si parla esplicitamente di riequilibrio anche degli organici usando gli strumenti previsti dalla legge, quindi io vengo dal sindacato, so bene cosa significa, sì, in termini anche di riorganizzazione e ristrutturazione, come fatto in tante industrie italiane, e quindi sostanzialmente questo emendamento si colloca poi in un piano triennale, quindi ha una portata triennale perché è un processo, sì, ovviamente non breve, però è monitorato costantemente dalla presenza e quindi anche una sorta di commissariamento, come lei diceva, del Ministero dell'Economia, dei ministeri. Quindi è chiaro che a quel punto non venissero rispettate queste condizioni, che succede? Quello che c'è stato in altri comuni, c'è il default. È default, vabbè, appunto, ma quindi, infatti, ma si tratta solo di spostare, diciamo, più in là un'asticella, voglio dire. Io credo che sia invece importante cercare, anche con medicine molto amare, di evitare il default e fare in modo certamente, tenendo conto della complessità della situazione, che stiamo parlando comunque di un'area, di una città che è la capitale, anche di un'area che in termini, sì, diciamo, di qualità e quantità molto estesa. Bisogna evitare questo. Io invece vorrei proprio fare questa porla da questo punto di vista. Caro Oscar Giannino, sarebbe scandaloso un default, voglio dire, a Detroit l'abbiamo visto, ma è un altro paese. Sarebbe cosa, e che cosa ci sarebbe di scandaloso se fallisse Roma capitale? Qui lo scandalo, secondo me, è che noi, in presenza di norme chiare nel testo unico degli enti locali, consentiamo alla politica di agire discrezionalmente. Le norme fino a questo momento sono applicate solo in capoluoghi che non hanno sindaci rivoltosi alla testa e che non sono in grado di esercitare, per così dire, una minaccia di impatto internazionale o di ordine pubblico. Alessandria 2 anni fa, capoluogo di provincia piemontese, è filata dritta al default senza che volasse una mosca, senza che gli alessandrini minacciassero le masaniellate. E tu ne parli, so che ne devi parlare. Ma no, certo oggi, che ne parlo oggi pomeriggio il sindaco. In trasmissione, vediamo cosa ne pensano del fatto che Alessandria va dritta al default. Invece quando si tratta di Roma, però ci dimentichiamo che il bis del salvataggio autorizza il sindaco di Napoli, De Magistris, a chiedere la stessa cosa. Ma De Magistris a questo punto dice: perché due volte a Roma in 5 anni e Napoli no? Ho ereditato anch'io 1 miliardo. Bravo, ma infatti milioni. Tu, Oscar, anticipi questa domanda che ho io capito, però ti ma voglio... La discrezionalità che cos'è? È un segnale agli amministratori non virtuosi a non riequilibrare il bilancio, sì, se sono in grado di ricattare lo Stato, perché tanto poi lo Stato dovrà intervenire, che punisce gli amministratori virtuosi, ma infatti, che devono pagare più tasse anche per i romani e i napoletani. Ma perché? Caro Oscar, fermati, perché dopo la pubblicità voglio proprio porti questa domanda. Oggi Libero mette a fianco le due storie. Dopo Roma c'è De Magistris, dove a Napoli la Corte dei Conti, non io, non Oscar Giannino, non Giorgio Santini, la Corte dei Conti dice un cittadino su due non paga le tasse. Ci sarà con noi anche dopo la pubblicità, credo, un agguerrito sindaco di Varese, Attilio Fontana, della Lega, per cercare di raccontare ancora questa storia. State con noi. 24 mattino. Tra l'ironia e il sarcasmo su Twitter, qualcuno mi scrive: speriamo sia la volta buona che vendano il Colosseo. Per carità, patrimonio culturale storico italiano, vendiamo altre cose molto più prosaiche, molto più terrene, molto più moderne. Siamo con Oscar Giannino, siamo con il senatore Giorgio Santini del PD. Ci ha raggiunto, lo saluto, il sindaco di Varese della Lega, Attilio Fontana. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti gli che dal suo osservatorio credo di immaginare già le sue, come dire, insomma, so che in macchina si sta spostando, dovrà tenere le mani strette sul volante, come dico io. Sì, sì, strettissime per non uscire di strada, siamo lì, situazione. Mi sembra di essere con delle gomme lisce su una strada ghiacciata. Senta, ma che ne pensa di questo salvataggio di Roma e dell'appello molto duro, Giannino ha detto, alla Masaniello del sindaco Marino? Ma vede, il concetto vero è che in Italia non si vogliono mai affrontare i problemi, ma si affronta solo l'emergenza. Quando ci si trova in certe situazioni si grida e così si crede di ottenere una risposta positiva. Il problema non è se salvare o non salvare Roma dal default. Io dico di no, che si dovrebbe lasciare andare in default come tutti gli altri comuni, vedi Alessandria, che hanno sbagliato delle scelte e sono andati in default. Il problema vero però è che bisogna trovare la soluzione al debito strutturale che la città ha. Non è possibile che la città abbia tra gli 800, certi giornali riferiscono 800 milioni all'anno, sì, altri riferiscono 1,2 miliardi, non lo so, diciamo 800 milioni all'anno. È chiaro che una situazione di questo genere non può essere consentita, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale. Inizi la città a vendere Acea, inizi a vendere Attac, inizia a vendere Ama, e allora a quel punto si può parlare. Queste vendite comporterebbero un doppio vantaggio, perché comporterebbero un flusso di denaro a favore della città, sì, e una serie di perdite in meno a danno della, certo, città. Privatizzazione, dice, privatizziamo queste. Ma è chiaro che finché ci sono delle società che hanno il triplo dei dipendenti necessari, sì, è chiaro che poi le cose vanno in, è chiaro, modo. Qui però io vorrei chiedere al senatore Santini, senatore, visto che appunto lei ha una lunga esperienza sindacale alla CISL, glielo chiedo molto direttamente, perché lei ha detto anche razionalizzazioni, ci sono gli strumenti per farlo. Diciamolo francamente, sono troppi i dipendenti delle municipalizzate, anche l'ATAC, andrebbero licenziati con tutte le tutele del caso, ovviamente, per i licenziamenti delle persone, quindi organici da ridurre? Ci sono alcuni fatti oggettivi che dicono che è così, quindi questo è un problema serio. E poi che si possa affrontare con forme di privatizzazione o, come diciamo noi, di liberalizzazione, che è una cosa un po' diversa, questo potrebbe essere oggetto di discussione, però sicuramente queste società, in particolare ci sono stati negli ultimi anni la gestione Alemanno delle infornate, diciamo, non previste di dipendenti, non necessarie. Probabilmente queste società vanno sicuramente rimesse a un equilibrio di gestione, a un equilibrio di organici, senza, ecco, naturalmente con grande rispetto e con grande attenzione alle vicende poi delle persone, perché dobbiamo trovare negli strumenti, la legge lo prevede, insomma, le norme e anche la contrattazione, le forme anche di ricollocazione di altro lavoro. Questo è un punto che va affrontato. Io non credo che convenga a nessuno far finta di niente. e pensare che poi alla fine la polvere è sotto il tappeto. No, ma è chiaro, perché questa è un po' la sensazione che è stata mantenuta in tutti questi anni. Oscar Giannino, sai che molti appunto ci scrivono come Alessandra è stata fatta fallire. Tu dicevi Napoli, oggi la Corte dei Conti dice, perché tanto sei uno di quelli che dice il non pagare le tasse può essere anche una forma di lotta e di resistenza allo Stato, ma a Napoli che uno su due non paga le tasse e il comune rischia il default e De Magistris adesso dirà avete salvato Roma, adesso salvate Napoli, come la mettiamo? Ma tu credi che la colpa sia dei napoletani o perché la Corte dei Conti dice semplicemente che gli uffici pubblici per le tariffe e le aliquote dovute a Napoli non sono in condizione di svolgere il loro mestiere? La Corte dei Conti dice la seconda cosa, mica dice che i napoletani sono portatori di un virus nel DNA. Questo è il punto di fondo, è esattamente come per l'esempio dell'ATAC. All'ATAC da anni la Procura ha aperto un'indagine perché l'accusa è di un circolo ristretto di dirigenti messi dalla politica, non dalle mano, c'erano da prima all'ATAC, che stampano serie di biglietti falsi, fanno la doppia serie e creano base monetaria per 60-70 milioni di euro l'anno, che sono più o meno un quarto di tutto quello che l'ATAC incassa ogni anno. Ecco, il sospetto da anni e anni i giornali se ne occupano, ma i sindaci non fanno niente e Marino in un anno non ha fatto il resto di niente su questo. Qui stiamo parlando di stampa di moneta falsa per soldi, dice la procura, ha il sospetto la procura di Roma, dati ai partiti. Allora, siamo in presenza di una roba nella quale non siamo solo all'inefficienza strutturale. Sì. Lì se la vedrà però la procura, cioè lì ci sono reati penali. Se la vedrà la procura, perché secondo te dopo che gli organi ispettivi interni da anni segnalano i problemi, non deve essere un sindaco a dire io voglio ruotare e buttare fuori e sanzioni a dirigenti che si occupano della bigliettazione? Ma se non lo fa è perché ha paura dei partiti o perché è espressione dei partiti? Non mi interessa la differenza. Io so che a Roma è macroscopicamente evidente tutto questo. Io ti dico che a questo punto il sindaco di Napoli, che ragiona dicendo perché il sindaco di Roma sì e io no, fa bene, cosa gli risponde? Fa bene. No, ma certo, fa bene a dire, ad avanzare la sua richiesta, no, ma è chiaro, dal suo punto di vista. Fa bene è la gara che noi incentiviamo tra gli amministratori che si trovano a ereditare le peggiori amministrazioni italiane, non a incidere in profondità per restituirle in equilibrio ai loro cittadini, per andare avanti così. È la situazione emergenziale, la situazione emergenziale è quella che Attilio Fontana, da sindaco di Varese della Lega, dice è la situazione intollerabile italiana. Capiterà dopo Roma-Napoli, caro sindaco Fontana? Capiterà dopo Roma, Napoli, poi si inizia a parlare di Palermo, ci sono problemi a Catania, cioè sono tantissime città del sud che sono in situazioni analoghe. Il problema, vede, è che noi all'ultimo incontro che abbiamo avuto con il governo siamo stati invitati ad essere buoni perché non si trovano 700 milioni per i comuni, ci è stato detto prima della fine dell'anno li troveremo, 700 milioni per tutto il comparto dei comuni per farci avere delle risorse che siano inferiori a quelle che abbiamo avuto l'anno scorso. Ci mancano 700 milioni e poi si legge sul giornale che vengono messi a disposizione di Roma 800 milioni, lei capisce che è inaccettabile una cosa di questo genere, è inaccettabile da tutti i sindaci, dai tanti sindaci che in questo paese si danno da fare con impegno e con determinazione. Se poi aggiunge che i 500 milioni che sono stati trovati consentendoci di aumentare le aliquote della TASI, allora uno dice a questo punto non è più accettabile, è un discorso a questo punto, ecco perché io dico se Roma deve andare in default. Ma parliamo degli americani. Quando A Detroit è successo. È inutile continuare a tenerla in vita in uno stato di semicoma. Se un'azienda americana perde un anno, due anni, tre anni... Per carità, è successa anche la città americana Detroit, però per concludere, senatore Fontana, senatore, gli ho dato del senatore Fontana, ma non si offende. No, non lo so, per carità, ma non è un'offesa, c'è il senatore Santini. È un'ambizione che non riuscirò mai a realizzare. Per concludere, sindaco Fontana, però il collega suo, leghista, che come si chiama, Marcolin, credo, che dice ci vorrebbe come commissario di Roma Nerone, ecco magari anche questo possiamo... Ma è una provocazione come è stata una... stupida provocazione quella di del sindaco di Roma che ha detto manderemo a blocco Varese tutto. No, manderemo a Varese le manifestazioni dei Black Bloc. Questa me la sono persa proprio a Varese, sì, nel suo comune. Manderemo a Varese le manifestazioni dei Black Bloc perché a me costano tanti soldi. Io gli ho risposto semplicemente che le accetto volentieri, che anzi li inviterò con estrema gentilezza, a come? Condizione che lui mi mandi gli 800 milioni, che mi mandi un po' di sede di ministeri, che mi mandi, che mi mandi gli uffici delle ambasciate e che mi mandi anche l'ATAC. Guardi, se lui me la manda gliela rimetto a posto e poi dopo vediamo di gliela rispedisce a Roma, va bene. No, dopo non gliela rispedisco. Vabbè, se la tiene, giustamente, che fa profitti. Ringrazio Attilio Fontana, sindaco di Varese, Giorgio Santini, senatore del PD, Oscar Giannino, ti ritroviamo alle 16.30 proprio col sindaco di Alessandria. Grazie Oscar per essere stato con noi. Dopo il traffico noi concluderemo 24 mattino con la presenza di Eva Klotz, che comincio già a salutare. Buongiorno consigliere Klotz. Buongiorno a tutti. Abbia un attimo di pazienza, c'è il traffico e poi sono da lei. Eccoci qui. Allora, ieri abbiamo parlato di questa vicenda dei soldi che in Trentino Alto Adige, circa 90 milioni, verranno distribuiti tra 130 consiglieri. Ieri avevamo Mauro Minniti e Pius Leitner. Oggi abbiamo Eva Klotz, consigliere di Südtiroler Freiheit, spero di averlo pronunciato bene, che leggo dalla lista, lei dovrebbe avere già ricevuto 435.761,59 euro e riceverà invece in un fondo, ora sono accantonati, nei prossimi anni altri 710.000 euro. Le cifre sono queste, circa un milione? Sì, sono queste. Come le giudica lei? Ecco, tutto parte negli anni 60, quando il Consiglio regionale si è agganciato al regolamento e all'automatismo dei parlamentari a Roma, i quali si erano agganciati al regolamento per i giudici. Sì. Allora, con ogni aumento per i giudici si aumentava automaticamente gli stipendi dei consiglieri e anche i diritti di pensione, perché allora bastava una legislatura, cioè 5 anni, e si poteva prendere una pensione di circa adesso di 28% dello stipendio già a 60 anni. Con 55 anni si poteva andare in pensione con 2 legislature e più o meno il 40%, con 3 legislature con 50 anni di vita con 70%, sì, con 3 legislature. Il massimo era maturato con 4 legislature, che oggi importa 6.800-6.900 di euro, è sempre stato aumentato. E con questo regolamento della ex presidente del Consiglio regionale si è rotto questo automatismo. Certo, però mi scusi. Perché i vecchi, proprio i vecchi, quelli che già ricevevano da decenni tutte queste cifre, no, certo, però non erano da convincere, se no dando loro qualcosa, diciamo, che avevano versato. Beh, però tutti qualcosa. No, ma è chiaro. Però mi scusi, signora Klotz, ieri qui Pius Leitner ha definito queste cifre, al cospetto dei cittadini, della crisi, ha detto: ammetto, sono una vergogna. Cioè, sono cifre, come dire, dal punto di vista della legge sono legali, ma sono cifre inaccettabili per i cittadini. Sì, ma l'alternativa era di lasciare tutto. Noi potevamo andare come brava gente se non cambiavamo niente. Vuol dire che i vitalizi andavano ancora avanti fino forse a 9.000-10.000 sì, euro al mese, e sempre maturavano di più, perché così, mettendo tutti allo stesso barro, diciamo alla stessa cifra, sì, come se avessero pagato per 2 legislature, cioè per no, ma io capisco, 2.800, lei dice, no? Così hanno tolto, e quello che si potrà risparmiare. No, ma è chiaro. Sono 9 milioni all'anno. Ma questo infatti è una riforma che per il futuro farà risparmiare. Ma non si poteva dire anche questi diritti acquisiti che avevate acquisito, siccome in Italia quando ci sono i diritti acquisiti per i lavoratori vengono cambiati nottetempo, anche questi potevano essere dire: cari consiglieri, voi li avete maturati, però... Sapete che c'è? Queste cifre sono scandalose, in questo momento sono scandalose, appaiono scandalose. Io ho chiesto alla signora Presidente se non era possibile di andare a 2.800 per tutti, anche per quelli che fino adesso ricevono 6.800. E lei che ha risposto? Senza ricevere qualcosa, e mi aveva detto che non era possibile, perché se uno solo... si opponeva, allora cadeva tutto, era questa l'alternativa, ma del resto è dovuto proprio quello, perché si erano agganciati a questo sistema romano. E per dire la mia, io sono andata in politica proprio per combattere che il Sud Tirolo faccia l'autodeterminazione per avere un futuro senza Italia. Infatti io le chiedo questo. Lei è nota, sì, è notissima per essere un indipendentista, passionaria, viene definita anti-Roma, anti-Italia. Le chiedo, non le sembra di apparire ingrata nel percepire dallo Stato italiano 1.100.000 euro mentre fa la battaglia per l'indipendentismo? Prima cosa, non è che questi soldi riceviamo dallo Stato, lo riceviamo dai contribuenti in Sud Tirolo, perché la regola è che vengano è la nostra gente, e si lasci fare da noi, che noi decidiamo se vogliamo appartenere a questo Stato, allora ci regoliamo. Italia non ci ha mai regalato niente, anzi adesso trattengono anche di più. Però Sud Tirolo al momento sono cittadini italiani, come la vuole... Ma io, quello che riguarda me, io da sempre la metà dello mio stipendio lo metto per la campagna politica, per il nostro obiettivo principale, un futuro senza Italia. Con questi soldi abbiamo potuto fare questo referendum autogestito, nel quale sono aderito a 61.000 cittadini di qua, della nostra provincia. No? Però, questi soldi... ma è chiaro, però lei questi soldi li prende perché in questo momento fa parte dell'Italia. Cioè, se fosse in Austria non credo che la politica verrebbe pagata con questi vitalizi. Ecco, questo volevo dire. Forse in Austria, se Sud Tirolo appartenesse all'Austria, forse io non sarei neanche andata in politica. Sempre avevo detto, qui faccio politica anche con uno stipendio che riguarda quello che ho preso prima come insegnante delle superiori, no? Certo. Perché io non sono andata per quello, perché se fossi andata per i soldi, io tranquillamente già a 10 anni con il massimo maturato potevo farmi una vita, prendere meglio. Giustamente lei dice, io in Austria non farei la politica. 800.000 euro avrei potuto prendermi e farmi una bella vita. Ci siamo tolti il 2003 da questo meccanismo dell'aggancio per noi con gli stipendi, così siamo andati indietro fino a 4.800 o 5.000, sempre ancora tanti soldi, ma riguardo non era giusto. No, ma è chiaro, lei dice... Che i pensionati... anch'io una volta avrei potuto andare tranquillamente. Sì, ma poi lei dice giustamente, in Austria lei non avrebbe fatto politica, cioè se eravamo in Austria io non... Perché il mio obiettivo principale sarebbe stato già raggiunto. L'autodeterminazione del Sud Tirolo. Perfetto. Poi decide la maggioranza se riagganciare all'Austria o se fare un proprio stato. Questo certamente. In ogni caso io, Eva Klotz, la ringrazio per essere stata con noi. Insomma, le cifre sono queste, lei dice sono cifre che sono maturate negli anni. Adesso vedremo, perché forse si farà un'altra legge che anche per modificare possa restituire, però se non avviene quello è un modo giusto, io i soldi metterei per la mia campagna. Ma questo certamente, poi uno nel momento in cui uno i soldi li ha, poi li usa come vuole. Certo, si sta discutendo se si riesce a bloccare questo fiume di denaro. La ringrazio, buona giornata, così come a tutti, buon weekend da Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza. Grazie, a lunedì con Peter Bescapè alle 6.30. Siamo qui, dai! Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.